giorno sarà il sole, di notte poi le nuvole, nascondere le stelle sopra noi. Ma noi sappiamo credere a ciò che non vediamo eppure c'è. Si dice che gli amici, le volte che scompaiono, son proprio come stelle accanto a noi. Caduti oppure persi, alzarsi senza abbandonarci mai. A volte si confonde anche l'amore, rincorrere qualcosa che non è. Illusione, strana storia, si vive senza averla mai. Capire infine poi cosa rimane, cosa ci sarà, la fine di un romanzo oppure fantasia. Hai perso e questo non è un gioco, sai. L'orizzonte arriva al mare, sapere che oltre non si va, il limite è concesso ai suoi comandamenti anche per noi. Avere tutto o niente è sempre uguale, alla fine nulla si otterrà, solo il vivere emozioni o dare sensazioni resterà. A volte si confonde anche il sapore, si mastica l'amaro e non si sa se di rabbia o delusione, se la senti e come mai. Capire infine l'oggi anche il domani, cosa resterà. L'amore è tutto un gesto di poesia, nel darsi sempre e non volere mai.